Doppia contabilità, diffusissima pratica, che di solito prevede un libro dei conti ufficiale e un altro che contiene tutto il nero. Nel caso di due aziende del mobile di Treviso, i finanzieri hanno scoperto però dietro ad un appendiabiti e dietro ad uno specchio due cavò che nascondevano la vera contabilità delle aziende. Un'evasione da 100 milioni di tasse non pagate e 32 milioni di IVA, ma anche molto lavoro nero, come spiega il comandante Giuseppe De Maio. Con notevoli ritenute previdenziali assistenziali non versate per 5 milioni e mezzo di euro. E i lavoratori irregolari nelle varie annualità sono 430. Abbiamo scoperto nelle varie annualità 13 lavoratori assolutamente in nero. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.